tutta la giornata, io ne ho visto, no? E gli otti. Ci sono altri compagni che si iscrivono allora, penso che ci torniamo oggi, ci possiamo continuare il dibattito. Ma io sarò molto breve, così non tarderò troppo il pranzo dei compagni. Ecco, volevo fare una prima considerazione, sono naturalmente d'accordo con tutte le considerazioni fatte dal compagno Paglizza e dal compagno Segre. Sentivo per conto mio il bisogno di accentuare, anche se le relazioni già hanno posto il dovuto accento su questa questione, l'importanza che a mio avviso ha lo svolgimento del congresso francese nei termini come esso si è svolto per il movimento operaio comunista. Credo che, io penso che dobbiamo avere coscienza di queste cose, per due motivi. Il primo, perché non c'è dubbio che questa posizione presa dai compagni francesi rompe in qualche modo il nostro isolamento, diciamo un isolamento che peraltro non era un assedio, ma aveva molto eco, ecco, non eravamo assediati, comunque un isolamento, un certo isolamento nel movimento operaio. E questo credo che sia un elemento che noi non possiamo sottovalutare. Tuttavia mi pare che c'è un altro elemento che è ancora più importante di questo e che fa tutt'uno con questo, e cioè che finalmente anche da un partito comunista che non sia quello italiano e da un grande partito comunista legale come il Partito Comunista Francese esce l'idea e l'affermazione di una volontà di trovare una via al socialismo e della costruzione di una società socialista che sia secondo modelli che tengono conto delle realtà nazionali e non secondo i modelli tradizionali. Cioè anche la Francia, seppur in modo diverso, ponendo tutta questa questione della dittatura del proletariato, che noi abbiamo risolto, certo, non con, credo fosse più rigoroso dal punto di vista scientifico, ma ponendo questa questione, anche il Partito Comunista Francese ha posto il problema di fondo del rapporto tra democrazia e socialismo. Io sono d'accordo col compagno Cardia quando sottolineavo questo elemento. E mi sembra allora che sia un fatto estremamente importante e per l'Europa e per l'insieme del movimento operaio, perché questo fatto non solo perché l'hanno preso i francesi per le ragioni che diceva il compagno Paglietta, ma perché assommandosi a quella che è già l'elaborazione e l'esperienza del partito italiano comincia a costituire un, io non voglio usare un'espressione che posso scandalizzare perché qui, ma un polo d'attrazione di come dire, capace di suscitare dibattito anche all'interno del movimento, estremamente importante. A me non stupisce neppure che vi siano prese di posizione come quelle jugoslave o della Romania contro questa posizione del Partito Comunista Francese, perché questi paesi hanno investito un altro punto, che è il rapporto tra paesi socialisti e l'Unione Sovietica, e diciamo hanno investito un altro punto che è il rapporto tra paesi socialisti e l'Unione Sovietica e diciamo la loro esperienza storica casomai ha posto questa questione come un nodo estremamente difficile, ma non ha investito il regime su cui si costruisce il socialismo, anche se sono due regimi estremamente diversi. Ecco, io per tutte queste ragioni ritengo che noi dobbiamo considerare il Partito Comunista Francese, il congresso del Partito Comunista Francese come un grosso fatto, del resto i compagni l'avevano già ampiamente sottolineato. Dicendo questo però non possiamo neppure dimenticare quelle che io personalmente considero contraddizioni all'interno della posizione francese, e che sono dei fatti che a noi personalmente daranno dei problemi molto seri. Voglio dire la posizione dei comunisti francesi, per esempio, sulla questione dell'Europa, che è radicalmente, qui credo che dobbiamo esserne consapevoli anche per come dire, certo, avere un rapporto di fraternità, di discussione fraterna con i compagni francesi, ma rendendoci ben conto che le nostre posizioni e le loro sulla questione europea sono agli antipodi, sono divergenti totalmente. Questo è un fatto certamente non positivo all'interno di un grande fatto enormemente positivo. Personalmente ritengo che anche su questa questione a un certo punto i compagni francesi dovranno pure fare i conti, ma questa è una speranza mia, quindi la tralascio. E secondo me questo fatto ne dobbiamo avere tanto più coscienza, ed è questa poi la ragione vera per cui volevo intervenire, in quanto io credo che un fatto importante per l'Europa, le elezioni del Parlamento europeo, si pongono oggi, in questo forse un pochino, perlomeno differisco un po' da quanto affermava il compagno Faietti, si pongono in un modo un po' diverso da come si è posto fino a poco tempo fa, cioè con maggiore possibilità di concretezza, con maggiore concretezza. Perché dico questo? Beh, non certo per tedeschi prima di sì, ma anche i democristiani sono d'accordo su questo. No, ma dicevo, quindi il brand si candida in Europa perché pensa di non riavere il seggio in Germania. Può darsi che sia anche per questo, infatti questo, noi ci siamo questi, se questo era un rilancio di Brandt oppure se era invece un'esportazione di Brandt, questo non c'è nessuno. Però il fatto che la Germania si sia impegnata nelle sue due componenti, va bene che tutto può cambiare, su questa questione è indubbiamente un fatto importante. L'impressione mia, anche dal modo come vengono oggi affrontati questi problemi all'interno del Parlamento europeo, è che noi sbaglieremmo se considerassimo la data del 78 come una data del tutto illusoria. Perché dico questo? Perché secondo me ci sono delle conseguenze che bisogna trarne, e al più presto. E allora qui io faccio questa considerazione. Il gruppo democratico cristiano per primo ha creato un gruppo europeo, un gruppo di europeo a cui partecipano tutti i partiti democratici cristiani d'Europa per l'elaborazione del programma per le elezioni al Parlamento, le elezioni dirette del Parlamento europeo. Il gruppo socialdemocratico subito meno di un anno fa, e i democristiani un anno fa, hanno fatto a loro volta un gruppo di tutti i partiti socialisti e socialdemocratici dell'Europa per l'elaborazione di questo programma. Adesso, il mese di marzo, i liberali, che non sono i liberali da pochi soldi che abbiamo noi in Italia, ma che rappresentano fra Inghilterra e Germania, certamente ancora una forza che ha, certo, molto meno degli altri due, ma che ha una sua voce nell'Europa, costituiscono un gruppo per il programma per le elezioni al Parlamento europeo. Già si comincia a parlare, già c'è la discussione sulla legge elettorale, la presa del Partito Socialista francese per il sistema proporzionale all'interno della Francia. E questo è un elemento che rende anche possibile ancora andare avanti il discorso di quel sistema elettorale che è venuto fuori dal Parlamento europeo. E tutto questo sono dei fatti e sono dei momenti iniziali, inizialissimi, ma di creazione di un contatto a livello comunitario e della formazione di una, ancora di un molto tenue, di una volontà europea, chiamiamola così, di queste forze politiche. Tant'è vero che ho visto sui giornali francesi e anche belgi che oggi si comincia a parlare, anche sui giornali americani, perché ho visto che questi giornali riprendevano la stampa americana, si comincia a parlare di forze politiche a livello europeo e non più soltanto a livello nazionale. Lasciamo da parte questa ultima discussione, che pure ha anche un certo interesse. Ecco, quello che io mi pongo, e noi che cosa facciamo? Perché qui vi sono delle risposte a cui bisogna dare. Innanzitutto vi è sul terreno economico, sociale, regionale, tutte le questioni che ci sono, c'è il problema di trovare, secondo me su questo terreno è possibile trovarlo, la linea di un'azione comune anche con i compagni francesi, oltre che con gli altri partiti, ma soprattutto con i compagni francesi. Ma vi è quindi da cominciare a parlare di questa questione, tenendo presente che però i francesi indubbiamente faranno ostacoli a una cosa di questo genere. Ma io credo che vi è anche da cominciare a parlare tra di noi del modo come si andrà, se si andrà, facendo tutti gli interrogativi possibili, con che sistema elettorale. Io devo dire che la televisione ha fatto delle interviste a tutti i parlamentari italiani, a tutti i gruppi in questa sessione di Strasburgo, chiedendo: ma voi come pensate che si debba andare alle elezioni in Italia per il Parlamento europeo, fermo restando il sistema proporzionale, cioè un sistema regionale di collegi con compensazione nazionale oppure un collegio unico nazionale? Io devo dire che ho evitato di rispondere su questa questione perché ho l'impressione che noi non abbiamo neppure lontanamente affrontato questo problema. Allora io ripeto, la ragione fondamentale del mio intervento è questo, che voglio sottolineare che vi sono delle scadenze che noi non possiamo, anche se poi saranno rinviate, al momento dare soltanto per ipotetiche, perché oggi ci sono più forze politiche che si muovono per renderle concrete e che noi dobbiamo andare a queste scadenze con una preparazione, non si tratta di cose di poco conto. Ecco, io volevo sottolineare questa cosa che mi pareva molto importante. Vorrei dire un'ultima questione soltanto sulla questione della difesa che ha posto il compagno Cardia. Ecco, io vorrei dire che anche il rapporto, questa almeno è la mia opinione, il rapporto Tindemans non si è ben guardato da parlare delle questioni atomiche, perché nessuno in Europa, né la Francia né la Germania per certi motivi, la Francia per altri motivi, accettano il discorso sulla creazione possibile di un pool atomico, eccetera. Il rapporto Tindemans si è basato su delle forme di integrazione tra gli eserciti esistenti e sulla questione del costo delle armi. Queste sono le due proposte concrete. Non sono cose da poco neanche queste. Però quello che io vorrei sottolineare è questo, che in questo congresso del Movimento Federalista Europeo, a cui c'erano presenti una parte dei padri eterni dell'Europa, tutti quanti, da Andreotti, che non è certo un nostro amico, per finire con Brandt, sul discorso della difesa hanno avuto tutti questa posizione comune. Brandt ha detto: abbiamo tempo di parlarne, ne parleremo ancora, ma rimandiamo. E Andreotti ha detto: questo è un problema che si pone solo nella distensione e non è possibile neppure parlarne oggi, oppure si può essere un punto d'arrivo, lui dice, di un'Unione Europea già molto avanzata, ma parlarne oggi significa porre un tale problema che rompe l'equilibrio esistente su questo piano, che sarebbe uno che ha usato questa espressione, un uomo con la testa sulle spalle non si può neppure porre questa questione. Noi abbiamo la posizione che abbiamo, quindi con le forze, tutte le forze politiche dell'Europa, o almeno la gran maggior parte di esse, si muovono in un senso che non è quello. Sì, dico che non è il senso di andare neppure a un'integrazione degli eserciti convenzionali, ma di rinviare questo problema ulteriormente, dopo eventualmente, e quindi andiamo molto lontano. Un processo molto lento che può avvenire solo nella distensione e che arrivi a qualche forma di integrazione europea. Ecco.